figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto, oggi puntata dedicata a un'iniziativa che è veramente nuova per l'Italia, ossia l'apertura del primo istituto di credito dedicato agli immigrati. Abbiamo seguito l'apertura lunedì scorso con molta attenzione e vogliamo appunto parlarvene. È una banca, si chiama Extrabanca, dedicata a quegli immigrati che magari vogliono accedere a un mutuo ma non sanno come fare, che come molti della comunità cinese vanno in banca con i propri figli che parlano l'italiano e che traducono per loro dal mandarino all'italiano. E poi dedicata anche agli imprenditori di origine straniera che vorrebbero magari ampliare la loro piccola impresa ma non hanno i soldi. In questo periodo le linee di credito sono difficili per tutti, ancora di più per chi non può magari avere garanzie. Sono loro quindi i clienti tipo di questa iniziativa che seguiremo nel tempo, cercheremo di capire se avrà successo. Intanto ha aperto appunto la prima filiale a Milano lunedì scorso, ne abbiamo parlato con il presidente Andrea Orlandini. Gli immigrati sono già il 6% della popolazione italiana e secondo le proiezioni sono destinati a raddoppiare entro il 2025, quindi un trend importante che dura nel tempo. Secondo aspetto è la crescente capacità reddituale, perché man mano che si integrano nel tessuto sociale ed economico iniziano a svolgere lavori più qualificati e quindi più redditizi, come è successo un po' agli italiani quando sono emigrati 100 anni fa all'estero. Ci sono degli aspetti economici importanti cui poi si è innestato, diciamo, la valenza sociale del progetto, ecco, che pur non essendo la nostra una banca etica, ci tengo, diciamo, a sgombrare il campo perché fanno un lavoro diverso le banche etiche, è un'iniziativa che è caratterizzata da una forte valenza sociale. Mi pare di capire i primi sportelli apriranno solo intanto a Milano e in Lombardia, è così? Diciamo che il primo aprirà a Milano, vicino a Piazzale Loreto, tra l'altro, e dove la percentuale di residenti stranieri è circa del 30%, per cui molto significativa. Tra Comune e Provincia di Milano abbiamo residenti 430.000 stranieri titolari di 17.000 aziende, quindi riteniamo che sia una buona idea partire da Milano, insomma. Il suo vicepresidente è una persona di origine camerunense, così? Sì, noi siamo convinti che il successo del progetto dipenderà dalla nostra capacità di individuare una squadra di stranieri, oltre che di italiani, disposti o desiderosi di dimostrare a tutto il mondo quello che valgono. E quindi, a partire dal vicepresidente, abbiamo voluto connotare l'azienda con la presenza degli stranieri. Attualmente il 55% dei dipendenti sono appunto stranieri. E probabilmente è una percentuale destinata pure a crescere. E vorrei dire che chi entrerà in filiale da noi troverà un contesto in cui si parlano 11 lingue. Non mi viene in mente nessun'altra banca in Italia dove accada una cosa di questo genere. La nostra sfida è quella di mettere insieme le 192 nazionalità che sono presenti a Milano, insomma, nella convinzione che siano accomunate dal destino, cioè siano tutti venuti alla ricerca di un futuro migliore che, a nostro parere, passa per la concessione del credito. Al momento in Italia, secondo dei dati di Caritas, ci sono poco più di 160.000 aziende con titolari immigrati, però potrebbero addirittura raddoppiare. Voi siete un canale aperto anche a queste aziende, immagino. È una delle 5 aree di business che ci riproponiamo di avere. Di fatto la prima è quella che consideriamo proprio forse più importante, in quanto erogheremo sicuramente soldi nostri, e si tratta appunto dei finanziamenti alle imprese cui i titolari sono extracomunitari. Ci sono poi le rimesse. Le rimesse al paese d'origine, dove l'Italia rappresenta oggi il primo mercato in Europa e secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Ci sono i mutui immobiliari, per esempio nella regione Lombardia un atto notarile su 5 vede protagonista un immigrato, diciamo. Il credito al consumo, dove, essendo più giovani degli italiani, quando mettono su famiglia, magari hanno bisogno di un finanziamento per una rateizzazione, per l'acquisto dei mobili della casa e così via. E da ultimo vorrei credere anche nella gestione del risparmio, visto che il 15% del 9,1% di prodotto interno lordo che risulta dal loro prodotto sembra essere risparmiato, quindi avremo anche l'ambizione di intercettare questo risparmio, insomma. Quali sono, per chiudere, gli obiettivi che vi ponete? Diciamo che l'aspirazione sarebbe quella di riuscire ad aprire circa 50 sportelli in tutta Italia e nell'arco di 5 anni. E per quanto riguarda i clienti? Per quanto riguarda i clienti, di avere circa 100.000 clienti per allora. Vi volevo solo precisare, certo, la banca è sì dedicata agli immigrati, ma non riservata, il che vuol dire che gli italiani sono naturalmente benvenuti. Dopo Milano sono previste aperture a Roma, Torino, Brescia, Verona e Bergamo. C'è un azionista di maggioranza che è Generali con una quota del 12%, ma ci sono anche la Fondazione Cariplo al 4% e un gruppo di 35 imprenditori. Nell'arco di 5 anni i vertici di Extrabanca puntano ad arrivare a 25-40 sportelli. Ma gli stranieri che arriveranno nelle filiali troveranno anche un personale composto, lo abbiamo sentito, per metà da stranieri. Fra loro anche Otto Bitioca, che è il vicepresidente e arriva dal Camerun. La genesi del progetto è parte da una lettura, quella che dico sempre, paradigmatica del fenomeno, non più luogo comune. Quale lettura ci consente di cercare di restituire la dignità all'immigrato mettendola al centro della nostra attenzione? Questa è un po' l'idea che ci ha motivato. Analizzando anche la dinamica strutturale dei dati, il tasso di crescita demografica degli immigrati in Italia, tasso di la capacità di produrre la ricchezza, l'incisione degli immigrati nella produzione del PIL e così via, ha fatto sì che abbiamo capito che c'era un mercato potenziale, quale mercato doveva essere intercettato e interpretato al meglio, insomma. Abbiamo deciso di cominciare a provare quale possono essere la politica di un'offerta che tende a trovare soluzione a bisogni degli immigrati, perché la nostra non è una domanda, ma proprio l'offerta. Visto che esistono molte banche in Italia, perché un immigrato dovrebbe venire proprio da Extrabanca? Ma prima di tutto perché è una banca che è vicino all'immigrato, una banca fatta per gli immigrati e dagli immigrati. Noi abbiamo nel nostro organico 55% dei dipendenti sono immigrati e anche il vicepresidente è immigrato d'origine, perciò condividiamo il nostro destino che si accomuna. Lì l'immigrato è a casa, lì l'immigrato trova una fiducia che le si dà gratuitamente, e questa fiducia si chiama il credito, e fiducia di credito significa dare soldi ma anche credere nell'uomo in quanto tale. Io credo che questa è la motivazione di fondo. Per il resto noi non siamo una banca che ha preso i prodotti del sistema, ha cercato di reingegnerizzarle facendolo su misura agli immigrati, ma noi siamo andati a cercare i bisogni reali e trovare le soluzioni a questi bisogni. Queste soluzioni, a questi bisogni si chiamano servizi prodotti di Extrabanca. Quindi nasce dalla constatazione che nel panorama degli istituti di credito tradizionali non c'era una facilità per gli immigrati ad avere credito o ad andare allo sportello? Ma il mercato del credito è un mercato ristretto, già tutti trovano difficoltà, ma l'immigrato ha un aggravante, il fatto che sia immigrato, il fatto che non abbia un sistema di garanzie che possa costituire dare la possibilità di avere un credito senza problemi. La mancanza di questo fa sì che noi siamo molto più penalizzati. Allora, facendo una banca strutturata su misura sugli immigrati, significa che leggiamo con attenzione queste problematiche, significa che noi proponiamo servizi, prodotti che sono ad hoc, che risolvono il problema degli immigrati nel confronto della barriera all'entrata nel sistema creditizio. Questo è un po' il problema, è la nostra posizione. Lei è vicepresidente ed è in Italia da 30 anni, arriva dal Camerun. Ci racconta la sua storia? Ma la mia storia, a dire la verità, è trita e ritrita. Io sono in Italia da 34 anni, ho studiato la Cattolica, mi sono sposato con una compagna di università che è di Milano, perciò ho anche un figlio che si è laureato l'anno scorso. Perciò io ultimamente mi batto molto su per l'immigrazione attraverso la Fondazione Etnoland, che è una forma di think tank che riflette e ragiona su queste problematiche, che lavora su paradigmi conoscitivi, non più sul luogo comune, perché riteniamo che la generalizzazione e la stigmatizzazione del collettivo, e cioè il tentativo di omogenizzare e tutto ciò che è eterogeneo, poi è un tentativo un po' errato. Allora noi vogliamo creare, cominciare a lavorare sulle nuove frontiere, le frontiere della nuova cittadinanza, ma queste frontiere della nuova cittadinanza si declinano nei singoli progetti, come ad esempio Strabanca, come Talea. Noi abbiamo anche un progetto di scuola, di formazione per la leadership che parte a giugno, e ben altre cose che noi cercheremo di fare. Ben prima di Strabanca abbiamo fatto il fondo Primi con la Banca Intesa, che è un fondo di garanzie per gli imprenditori emigrati. Progetti quindi concreti per le esigenze pratiche degli immigrati. Di recente però abbiamo assistito a delle tensioni proprio a Milano, a Via Padova. Che cosa ne pensa? Ma io non vedo nessuna tensione interetnica, non la vedo. Quello è stato un fatto che poteva accadere anche tra giovani italiani, oppure tra giovani marocchini, oppure tra giovani colombiani o peruviani. È una cosa che è accaduto, poi che ha tirato fuori quello che chiamo l'inconscio rancore, no? Che cova dentro gli immigrati, perché dopo tantissimi anni di processi di inferiorizzazione, di processi della rabbia, ogni tanto quando subentra un evento non previsto, allora la rabbia viene fuori con manifestazioni incontrollabili come questo, ma sono cose un po' così sporadiche, che non è che non vivono automatismi, non è che la stessa cosa si riproduce domani mattina, ha gli stessi effetti. Ha ragione o torto, però la diffidenza verso gli immigrati di recente è abbastanza diffusa. Credete che la vostra iniziativa verrà accolta con simpatia dagli italiani? Ma credo proprio di sì, che sono una sintesi delle soluzioni che proponiamo. E io ho sempre pensato che l'innovazione non verrà mai dall'istituzione, perché l'istituzione per antonomasia è conservatrice. L'innovazione viene dalla società civile. Oggi fare una banca premium in questo periodo dove le banche sono viste male, è una banca dedicata agli immigrati, ci vuole il coraggio, però ci vuole anche il fatto di avere una visione, tracciare la strada, indicare una prospettiva di speranza, declinare questa prospettiva a un atto concreto che è la banca. Questa è la sfida, no? Nessuno deve avere paura del futuro che in realtà è presente. Ed è tutto per questa puntata, appuntamento con voi a domenica prossima 14:15, sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore. Buona serata a tutti.